per me, io son fatto per te, vuoi sapere perché? Se ti vedo passare io mi volto a guardare, tutti volte a guardare, quella bocca, quel sorriso, il più bel fior sei tu. Riminare il tuo bel viso io non resisto più. Tu sei fatta per me, io son fatto per te, tutti sanno perché. Tu mi piaci così, io ti piaccio così, manca solo un bel sì. È inutile aspettare, far soffrire i nostri cuori. Tu sei fatta per me, io son fatto per te, amore. Per me, io sono fatto per te, vuoi sapere perché? Se ti vedo passare, io mi volto a guardare, tutte volte guardare. Con quella bocca, quel sorriso, il più bel fior sei tu. Per rimirare il tuo bel viso, io non resisto più. Tu sei fatto per me, io sono fatto per te, tutti sanno perché. Tu mi piaci così, io ti piaccio così, manca solo un merci. È inutile aspettare, far soffrire i nostri cuori. Tu sei fatto per me, io sono fatto per te, amore. Fatto per te, tutti sanno perché. Tu mi piaci così, io ti piaccio così, manca solo un bel sì. È inutile aspettare, far soffrire i nostri cuori. Tu sei fatto per me, io sono fatta per te, amore. Tu sei fatto per me, io sono fatto per te, amore.